anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! E buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Basement Records in edizione natalizia. Per voi stasera 3x2 per Basement. Con me ho incredibilmente due ospiti qui accanto a me nella tana del Wombat per questa mega offerta natalizia. Per la puntata prima delle vacanze, e qui accanto a me nella tana del Wombat ho il buon Apollo e l'esperto. Era l'ora. Mezzo a voi. Siamo in tana. Benissimo, e qui e stasera Basement Records è stato sarà registrato grazie alla collezione vinilica portata qui da Apollo con la sua selezione di gran kick, devo dire. Abbiamo fatto la scaletta prima, vedremo cosa ne pensate poi alla fine di questa puntata. Tema rigorosamente natalizio. Dici? ti senti natalizio, ti vedo con il cappellino, sono il pompon, in effetti. Sono stati selezionati con spirito natalizio, poi quello che ne viene fuori... La selezione è natalizia, capisco. Poi, qui, è a tema morte, ecco. Diciamo che spirito natalizio è una frase che può essere interpretata in vari modi. Va bene, vedremo come la interpreteremo. Intanto ricordiamo i modi per mettersi in contatto qui con noi di Radio Wombat. Il sito è cambiato, se ve ne siete accorti. Il nuovo sito è radiowombat.net, senza neanche il www, radiowombat.net. Però la frequenza in AM è rimasta sempre la stessa per la zona fiorentina e un po' il circondario, che si sta espandendo sempre di più grazie alla pompa acquisita dall'antenna del Wombat. A Rifredi si sente alla grande. Da Rifredi. Venite tutti a Rifredi. ma parecchio più in là ci stanno dicendo, caro il mio Apollo. Ma non è che ci si allontana tanto da Rifredi di questi tempi, quindi... Vabbè, intanto Rifredi si sente benissimo, è perfetto, fondamentale. Perfetto, da casa sua si sente benissimo, quindi 1359-1359 per il territorio fiorentino, in onde medie o in onde mediocri, come vi piace di più chiamarle. L'indirizzo mail, la posta è sempre la stessa, posta wombat@insiberia.net. I nostri canali social, perché noi di Radio Wombat siamo anche delle genti moderne e quindi abbiamo anche dei canali social all'avanguardia, direi, all'avanguardia. E su Twitter siamo su twitter.com/radiowombatfi, su Facebook facebook.com/radiowombat Firenze, partiamo, che facciamo? Partiamo subito con il primo vinile, buon Apollo, ce lo vuole introdurre questo primo pezzo della sua collezione? No, il primo pezzo così assolutamente, così in diretta, senza preavviso, l'unica cosa che si può dire è che, appunto, rispettando lo spirito natalizio, il pezzo parla di cioccolato, che voglio dire, insomma... Abbastanza spirito natalizio, abbastanza, sì. Natalerrimo, voglio dire. E a parte questo, quindi godetevelo, se potete, con un bicchierino di rum, come si usa col cioccolato, ma se no anche senza. Ma bene, ascoltatevelo fino in fondo. Sempre qui, a Basement Records, Radio Wombat. Chuck. Madonna che funkitudine davvero. Sentivo il roba. Dacco, Dacco era un po' più del sì, davvero. Come l'altro il tema del. Il tema del cioccolato ritornerà poi più avanti. Sì, nella scaletta, cioè già preparato qualcos'altro no. Di cioccolatoso. c'è un sacco di cioccolato nella nostra scaletta, ma il tema del cioccolato ritornerà poi in realtà nella produzione musicale di Isaac Hayes. E molto molto più avanti c'è qua Apollo pensa di essere a Abbey Road, di avere il microfono panoramico dei Beatles e allora sta dall'altra parte della stanza a parlare. Perché dove siamo, scusa? In questo momento è al piano di sotto Apollo. Ci senti Apollo? Prosegua pure perché era molto interessante. Purtroppo anche se fossimo a Abbey Road la compagnia non è dello stesso livello, quindi dovrò tenere un pochino insomma su il livello della trasmissione e mi accingo a farlo. Si accontenti, messeri. Parli di cioccolato ma non sei dolce. No, ma neanche il riferimento, l'ultimo riferimento al cioccolato di Isaac è dolce perché in realtà è salato, bene? Perché uno degli ultimi pezzi in assoluto della produzione, un attimo che me lo struscio sulle tonsille il microfono, è l'ultimo, forse uno degli ultimissimi successi di Isaac, dei grandi successi di Isaac nella sua produzione è stato un singolo che è stato dedicato, vogliamo pensare con grande affetto, alla serie di South Park e al mitico personaggio di Chef, a cui Isaac dà la voce, tra l'altro, sì, ma è anche proprio copia carbone, tra l'altro, di Isaac Hayes, il buon e dove carbone Chef è un termine deliziosamente e politicamente corretto, e ovviamente... Hai scelto, esatto, Chef, diciamo È la copia, ok. Ma una copia rotonda. Mi perdoni, no. Esatto. Il tema, diciamo, di Chef, appunto, è la mitica Chocolate Salty Balls, bene? Quindi palle di cioccolato salato. Un pezzo che è un altro funky scatenato, sì, anche se forse non che così che poi detto da Chef comunque vogliamo ricordare che insomma Isaac non ha mai fatto mistero, soprattutto poi in anni insomma diciamo un po' più centrali della sua carriera, della sua potenza, della sua sensualità, diciamo molto jungle, va bene? Ricordiamo che andava a giro all'epoca d'oro dei concerti della Stax, casa discografica che, piccolo cenno storico, era l'unica rivale, diciamo, a livello della mitica Motown. A livello di musica nera negli anni 60-70, e che era quella un po' più nera, se vogliamo dirlo così, va bene? Quindi quella più funk, più un ritmi più meno commerciale, meno commerciali, esatto, va bene? Meno mainstream, e di cui vogliamo ricordare che Isaac è stato prima uno insomma dei pupilli e poi il direttore artistico per anni e anni e anni, nonché produttore, esatto. Compositore eccetera, comunque all'epoca d'oro della Stax, quando appunto Isaac capitanava la schiera, la folta schiera di grandissimi artisti della casa discografica nei loro concerti negli stadi, va bene? Il buon Isaac, appunto, in rappresentanza della casa discografica, andava a giro, arrivava in limousine e si presentava a torso nudo con un simpatico gilet di catene d'oro, va bene? Così per ricordare che il cioccolatino era lui, fondamentalmente. Fondamentalmente. Quindi, restiamo sempre, direi, in... Sì, l'ambito è quello, però dall'altra parte dell'etichetta... Passiamo alla concorrenza. Questo è un disco della Motown che poi andremo con Apollo... Dopo magari Apollo ci racconterà qualcosa di quest'altro disco della Motown, un altro pezzone vi aspetta qui a Basement Records, in speciale 3x2 natalizio. Inebriatevi, inebriatevi. Sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Yeah. era andata lunga, c'era un rientro di fiamma nel nostro impianto, una cassa troppo alta per i Commodores, ma come si faceva a non tenerla con tutta un funk fiamma? Così l'impianto non può reggere, ma neanche Abbey Road reggerebbe. È rientrato tutto perché stavamo funkeggiando malamente, devo dire. Che vogliamo ricordarlo, perché se no non si capisce il riferimento. Appunto, era la voce principale, il leader dei Commodores, che poi ha avuto, come sappiamo, una carriera all'interno della disco, ma della musica pop, ma è partito appunto dal funky dei Commodores, appunto. Abbiamo sentito, avete avuto il piacere di funkeggiare al ritmo di Hold On, la title track del secondo disco dei Commodores, e quindi per questo ricordiamo Lionel Richie, che appunto è stato poi in realtà ha raggiunto, diciamo, una fama più duratura come solista, ma con un genere completamente diverso e forse almeno per i nostri gusti, qui non esito a prendere posizione, un genere, diciamo, meno intenso. Volevo a questo punto introdurre, rimaniamo sempre sul... Il prossimo disco, quello che è già sul piatto. Di Radio Wombat. Volevi introdurlo? Io lo lascerei introdurre all'esperto. Diciamo solo il nome dell'artista, grandissima artista africana. No, è l'altro deck, cioè prima... C'è prima il duo di Van Morrison con Dr. John. Benissimo. Tra l'altro provengo appunto da settimana scorsa, che ho fatto una monografia su Dr. John. Non so se volete ancora sentire parlare di lui, se no un'introduzione ve la posso fare. Questo è un disco collaborativo tra Dr. John e Van Morrison, se non sbaglio. Mi sembra fosse un disco del 77. Questo è un live in studio del 77, tra l'altro in Danimarca. Quindi in Danimarca, si parlava perché di Stoccolma per scherzo, ma in realtà il Nord Europa era già nell'aria. E appunto perché Dr. John produsse anche l'album del 77 di Van Morrison, che adesso non mi ricordo qual era, comunque appunto... produsse il disco di Van Morrison del 77, e questo è un concerto ad Amsterdam. No, aspetta che mi pare è un concerto a Hilversum, ecco, in Olanda, il 22 giugno del 1977, e appunto è un'accoppiata abbastanza... Van Morrison, cioè il bianco con la voce da nero, e Dr. John, la rappresentazione... Il bianco con l'anima del nero. Dr. John, la rappresentazione voodoo di New Orleans, fanno questo concerto insieme. E il brano scelto per l'ascolto di stasera è la seconda traccia del secondo disco, è un monodisco, scusate, è solo la seconda, è solo il lato B, e questa è Fever, Van Morrison insieme a Dr. John, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no... Ha ha. walk through the night. Questo era Van Morrison con Dr. John con la cover di Fever. Questo disco, prego, secondo me è un piccolo capolavoro a suo modo. Ha il pregio di essere stato acquisito di persona. È l'unico vinile che io ho comprato di persona nel 2020, va bene? Ah, quindi questo annaccio infame. È nuovo nuovo, quindi. Questo è nuovo nuovo, esatto. E appunto, comprato in bancarella, voglio dire, come si usava una volta. Come si usa tuttora, dai. Come si userà poi, soprattutto l'anno prossimo, insomma. Se non lo compri da tastiera, lo compri da bancarella, dai, il vinile. Esatto. Diciamo che... Sicuramente votiamo per la bancarella. votiamo per la bancarella, assolutamente. E questa è stata veramente una sorpresa. È un live a me sconosciuto, ma che ci dà veramente uno scorcio su due maestri, appunto del viaggio nella musica nera, pur non appartenendo loro alla comunità afroamericana, ma che appunto si esprimono con un repertorio di blues. Quindi fondamentalmente hai Van Morrison, il cantore della magia, moderna magia celtica, hai Dr. John, il voodoo di New Orleans, che fanno tutt'altro rispetto a loro e sono veramente... E lo fanno alla grande, grande, ecco. E lo fanno a Amsterdam, così proprio, quindi tra l'altro un incrocio fuori contesto, proprio a caso, vabbè, ci è piaciuto, un incrocio notevole. E da adesso dai territori nordici e da Van Morrison cambiamo latitudine, Dr. John, cambiamo completamente latitudine, perché sul primo deck del giradischi di Radio Wombat vedo qua questo vinile rosso fuoco, che è di una grande artista africana, che tra l'altro è passata anche qua da Firenze l'anno scorso con un concerto intensissimo. Infatti, se non mi sbaglio, lo vendevano questo vinile a quel concerto, o ricordo male. Questa è la grandissima Fatumata di Avarà, che è veramente una portabandiera della musica africana contemporanea. Un chitarrista fenomenale, una grandissima cantante, un'autrice di musica di rock africano contemporaneo, veramente originale, anche se figlia d'arte, insomma, diciamolo comunque. Ben inserita. Rock africano moderno, ma assolutamente legato alle tradizioni, alla sua beat, terra, ai suoni provenienti, dai tantissimi suoni provenienti dal continente africano. Assolutamente. Per chi è stato abbastanza fortunato da essere lì quella sera, è stato un concerto indimenticabile. Le sfondità, e andiamo a ascoltare la nostra buona pezzo. Fatumata, che in quanto a profondità non è seconda a nessuno, e anche in quanto a soli di chitarra. E questa è Fatumata di Avarà qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. E questa era Fatoumata Diawara con il pezzo omonimo dell'album Fenfo. Bravissimo Fenfo, che già non ricordavo già più. Che vuol dire fatti sentire, è un invito al... perché Fatoumata è anche un po' una leader, vogliamo dirlo, insomma, assolutamente, sì, no, è totalmente contemporanea, quindi fa una musica che è impegnata, al di là del fatto che per chi non è familiare con lo Swahili i testi non sono immediatamente comprensibili, ma hanno temi anche, insomma, sociali importanti sull'Africa contemporanea. Esatto. Quindi complimenti Fatoumata. E quindi passiamo al prossimo vinile, perché vedo che hai portato una dei miei miti, cioè una veramente una delle mie leggende del jazz. Sì, questo il prossimo musicista sarà, ma, diciamo, meno originale come scelta. Però ma... vabbè, qui sapevi di fare veramente un gol a porta vuota, ecco, quanto qui, meno con i miei gusti, ecco. Qui veramente ci si cala le braghe e basta, perché Bird, Charlie Parker, ci sta sempre. Questo vinile invece non è, a differenza dell'altro di cui discutevamo prima, nuovo di pacca, ma anzi, insomma, i suoi annetti. Mi è stato regalato dal mio vicino di casa, e già questo è un bel fatto, perché per basement soprattutto, perché sono quelli di recupero, quindi più recuperato di questo, ecco, no, veramente questo è proprio assolutamente recuperato dal vicino di casa, che è un grandissimo esperto di jazz e che ha quasi 70 anni, tra l'altro, e per buona parte di quei 70 anni, come ho avuto modo di scoprire dopo un bel po' che vivevo accanto a lui, ha collezionato vinili di jazz. Per cui ho avuto modo di scoprirlo perché in una memorabile serata nel monolocale mi ero trovato a suonare fino a mezzanotte con un paio di amici, due chitarre e un contrabbasso, e appunto allo scoccare della mezzanotte il vicino di casa in questione, che sta al piano di sotto, chiamò per dire, in modo assolutamente non violento, ma accondiscendente, diciamo, che lui adorava il suono del contrabbasso, ma fino a mezzanotte. Poi dopo generalmente preferiva suoni un attimino più ambient. Più ambient. Probabilmente il contrabbasso suonato da me non era esattamente il massimo. Fosse stato suonato da uno dei contrabbassisti che accompagnano Charlie in questo pezzo che sentiremo, che in questo caso è... Sarebbe ora, mentre aspettiamo appena poco che ci dice la line up. Sono appena poco per questo. No, voglio dire, questa è una registrazione di Charlie Parker con una formazione in quintetto che vedeva, appunto, tra l'altro, Miles Davis alla tromba, Max Roach alla batteria, J.J. Johnson al trombone, Tommy Potter e Duke Jordan in questo sestetto di pura estrazione bebop. Se mi fai aggiungere una nota sul mio mito Charlie Parker, veramente un maestro e un maestro, cioè il tutto del sax alto, del sassofono alto, uno di quelli che ha fatto un linguaggio tutto suo e talmente estremo per i canoni del tempo che chiunque poi si sia approcciato con il sassofono alto dopo Charlie Parker o si rifaceva a lui o doveva necessariamente trovare un altro linguaggio per poter interpretare in maniera nuova quello strumento. Infatti poi con l'evoluzione della storia del jazz, il sassofono alto ha lasciato il passo al tenore, al soprano, ad altri tipi di sassofono, anche al baritono, perché appunto Charlie Parker aveva portato talmente agli estremi la tecnica del sassofono alto che appunto non potevi più avere un'evoluzione su quella linea lì, o ricopiavi lui, era praticamente impossibile perché era un virtuoso di livelli eccezionali e quindi già questo ti poneva davanti a una montagna sacra da scalare. Non potevi girare intorno a Charlie Parker, esatto, cioè, dovevi scalarlo, cioè, non c'era verso, musicalmente parlando. Nel sassofono alto c'è un prima e un dopo Charlie Parker. Cioè, magari nel tenore ci sono stati tanti interpreti che hanno portato avanti la tecnica e il suono di quello strumento, ma dopo Charlie Parker più nessuno è riuscito a portarlo nella fase successiva del jazz, dal bebop al free jazz ad esempio. Infatti è uno strumento che è abbastanza relegato all'epopea bebop e allo swing. Il sassofono alto viene appunto dalle big band, dalle orchestrazioni, e con l'evoluzione che ha avuto poi successivamente il jazz, diciamo che si è un po' fermato lì perché gli strumenti a fiato fondamentalmente poi hanno seguito altre strade con il free jazz e la fusion, le varie evoluzioni del jazz moderno. Non mi ero accorto che fosse luna piena e che quindi questo avesse dato stura al musicologo Mannaro che vive dentro appena poco. Vabbè, veramente viene paura a pensare che siamo nello stesso studio, quindi nella stessa stanza. Vabbè, adesso veramente lasciamo la parola a Bird, lasciamo le note a Bird. Volevo solo concludere dicendo che appunto il famoso vicino di casa di cui si parlava prima, con il chiaro intento quindi di darmi una lezione soprattutto musicale, il giorno dopo, quindi tornata l'alba, si presentò alla porta e mi regalò appunto questo vinile. Cioè, un modo, come dire, se mai tu dovessi di nuovo osare suonare fino a tarda ora, mi raccomando, fallo. Prendi un livello superiore. Prendi un po' di esempi. Charlie Parker. E questo è Bird, ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat. E dove se no? Thank you. Questo era Bird, Charlie Parker, con Quasimodo, qui della collezione di Apollo, appunto, che dire, del vicino di casa di Apollo, una formazione incredibile, appunto, con un Miles Davis giovanissimo alla tromba, Max Roach alla batteria, giusto per citare i più famosi, insieme a Charlie Parker in questa registrazione. Però vedo già pronto un altro vinile nel lato accanto del giradischi. È inutile che faccia qui finta di non sapere cosa c'è sull'altro deck. No, è che io non... appunto, dopo che il musicologo Mannaro è stato risvegliato, mi guardo bene dall'avvicinarmi, casomai mi mordesse. Maledetto. Però sì, che stiamo cambiando. Io credo che uno stacco più netto e traumatico a livello musicale non sarebbe difficile da trovare, va bene? Ma questo è Radio Wombat, questo è Basement Records soprattutto. E siccome anche le foche bevono Radio Wombat, per tutte le foche che in questo momento ci stanno ascoltando, va bene? E qui non posso aggiungere viva la foca e Dio la benedoca, va bene? sempre per rimanere sul politicamente corretto. Verremo... Questo è stato bellissimo conoscervi. Potrete, se prenotate il biglietto online, potrete assistere alla nostra lapidazione. Prendete un San Pietrino anche voi e venite ad assisterci. Ma... e rendete il meno sofferente possibile questa esecuzione. Più rapido pubblica. Possibile, esatto. Vabbè, questo è il bello della diretta, va bene. E anche delle foche per mediare questo shock musicale, racconto solo una storiella. Allora, il prossimo disco che andiamo a ascoltare, cioè, un salto veramente da snowboarder, direi veramente un trifle cork per arrivare da Charlie Parker al prossimo disco. e forse non basterebbe, perché ci lanciamo negli anni 90 in un suono molto più elettrico e qui sicuramente l'esperto in un'altra zona degli Stati Uniti, però sempre negli Stati Uniti rimaniamo. È l'unica cosa che hanno in comune questi artisti. L'esperto, in quanto snowboarder anche lui, sicuramente avrà capito e potrà commentare sul triple cork. Sì, che all'epoca, però, ovviamente all'inizio degli anni 90, non ho specificato se frontside, backside, switch backside o cab. Sì, però la base dei triple cork, ma quindi non importa tanto, cioè, non so quanto potrete argomentare. Visto il periodo degli anni 90, mi ricordo esattamente dove lo applicavamo, dove veniva fatto, e appunto mi ricordo fortemente che non c'era abbastanza aria e nemmeno i kicker erano troppo neve, piccoli in quei tempi. No, non erano curve, non erano parabole quelle che ho nella mia memoria, ma pavimenti, forti pavimenti. I pavimenti su cui finivano i triple cork, appunto, che evidentemente in quell'epoca si provava a far decollare, ma che poi atterravano malamente, va bene? Ed è per questo che il prossimo pezzo di gengibre il prossimo pezzo che vi preghiamo quindi di ascoltare con le vostre gengive, di sentirlo sulle gengive, è dei Pavement, che tra l'altro erano live a Minneapolis, e visto che proveniamo da citazioni snowboardistiche, cioè Minneapolis, nel Minnesota, io ricordo che Minnesota is brutal, perché in quanto a condizioni atmosferiche non è veramente secondo all'Alaska, visto le condizioni climatiche invernali del Minnesota. E tra l'altro ti posso aggiungere, tornando è tutto alla, piatto però tornando alla solo musica, ferri. Ti posso aggiungere che il motivo, quello che tu hai appena detto, è il motivo per cui, per sua stessa ammissione, Prince, il grandissimo artista scomparso nel 2016, non si è mai trasferito da Minneapolis, Cioè, piaceva il freddo a Prince, non l'avremmo no, detto. Non gli piaceva il freddo, ecco. Ma il freddo selezionava la compagnia, secondo lui. Quindi chiaramente Prince di Triple Cork qualcosa ne sapeva, va bene. Una sarebbe difficile trovare una musica più calorosa di quella di Prince, io penso. Forse negli ultimi 30 anni, ma... Era proprio per compensare... Forse era proprio per compensare il freddo brutale del... Del Minnesota. In ogni caso... molto rapidamente, questo vinile è in mio possesso da 4 anni. L'ho ascoltato in totale 0 volte, va bene? E questo fai perché, proprio schifo, fai. E questo perché mi è stato regalato dal mio capo, quindi per ragioni, diciamo, di relazioni di lavoro e di ragioni sindacali non l'ho neanche ascoltato. Però in realtà questa è una nota positiva, va bene? Cioè l'ha portato... E quindi l'hai portato qui in esclusiva a Basement Records. Per ascoltarlo la prima volta. E l'ultima vogliamo infatti sperare. Infatti quale pezzo mettere gliel'ho detto io. Cioè, e l'ultima vogliamo sperare. Veramente. E questo va ad onore di Jason Houston, il più grande dantista, quindi esperto di Dante Alighieri dell'Oklahoma, come lui stesso ama ripetere. Il quale in gioventù, prima di dedicarsi a tali studi alti e divini, era un bassista che suonava in una cover band dei Pavement. Ci ho detto partiamo parole alla musica. Con i Pavement, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, 3x2 natalizio, e dove se no? Questi erano i Pavement qui a Basement Records. Come chi è il prossimo? Sai chi è il prossimo? No, aspetta. Coi vinili veramente È James. Ascolta, quindi torniamo a casa con il prossimo. Però nel tornare a casa dobbiamo salutare... Ci sono prima dei saluti da fare, prima degli arrivederci, prima dei benvenuto, cioè dobbiamo salutare l'esperto che dopo aver ripetutamente... No, esperto! Dove va? E quindi da ora in poi abbandoniamo l'esperienza, ascoltatori catodici. Mi spiace, voi sarete in mano veramente. Da ora in poi, catodici, siete in mano solo di loro due. Alla teoria, dei lupi mannari e degli apolli. E... niente esperienza, niente profondità, contatto con la realtà. Solo luci e ombre, chiaro scuro, apolli e lupi mannari. Addio esperto. Arrivederci esperto. Diamo un arrivederci all'esperto. Un bacio catodico su queste onde AM. E quindi ci vuole introdurre come mai è in possesso del prossimo vinile che ascolteremo. Allora, il prossimo vinile è visto che il... è Basement Records, un po' la provenienza ce la dovrà spiegare. Sì, no. Il prossimo vinile è il primo vinile, è a me caro perché è il primo vinile che io ho regalato, va bene, a una persona molto importante e è un vinile importante, è un doppio vinile che è un live. L'artista protagonista non lo riveliamo ancora. Ma ritorniamo, diciamo, dopo i Pavement. Lo vuole lasciare come sorpresa addirittura. Beh, sarà una sorpresa per poco, perché è un artista veramente inconfondibile. E anche se il pezzo che proponiamo è un po' datato, perché comunque è una hit, se così vogliamo chiamare, una sua hit degli anni 70. Assolutamente, sì, credo sia dell'80. Credo che sia il suo pezzo più conosciuto, tra l'altro, che ha lasciato un segno indelebile, direi, nella storia del progressive italiano. Esatto, e è una delle leggende ancora viventi della meravigliosa comunità napoletana. E quindi consideriamo anche questo pezzo un omaggio a un'altra delle leggende non più viventi, da poco di partita, della stessa comunità di cui parliamo. No. Va bene? Esatto, e per il resto dei commenti vi rimandiamo a dopo. Nel frattempo ce ne andiamo tutti in campagna, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. casa regna e sacro, chiamato un suo signore, casa in trasse sempre giù, ma chi sa perché è stata, ma non forse vanno lì, la campagna si ritrova, sta costrutta e culo. Questa era Campagna di James Senese, in questo caso resa famosa dalla sua formazione con il Napoli Centrale, un pezzo di storia del progressive italiano della fine degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80. Veramente una storia, un pezzo di storia della musica italiana di quegli anni. La musica italiana come veramente non se ne sente più, se non appunto per i fortunati. Non ci faccia il retrogrado, per favore, o il retromaniaco. Beh, James, io ho avuto la fortuna appunto di sentirlo live nell'occasione in cui ho anche acquistato il vinile e poi l'ho regalato. Quindi mi considero veramente un insomma fortunato, e poi l'ho anche sentito di nuovo alla Flog in un'altra occasione, che James comunque ancora gira, e sempre per incarnare poi quel nero a metà, quel personaggio del nero a metà che tanto ha dato alla mitologia napoletana, insomma. Quindi questo era James. Adesso torniamo nuovamente però al nero non a metà, va bene? Quindi torniamo alla musica afroamericana e al funk che a noi caro, con un altro protagonista. Assolutamente stracaro, direi. In questo caso un grandissimo interprete. Il grande George Benson, che ha avuto un altro di quegli artisti, diciamo, conosciuti al grande pubblico per una singola hit, che tra l'altro è quella che andiamo a farvi sentire, ma che ha avuto una discografia sterminata, e questo vinile in particolare è arrivato a me in modo quasi mistico, va bene, questo vinile che vedo la data 1980 sul centrino del vinile qui sotto a me. Voglio dire, nel 1980 sarebbe difficile che mi fosse arrivato, perché non ero ancora nato, va bene, ma in anni più tardi, nel 1980 lei stesso probabilmente appena poco era poco più grande di un vinile, quindi la smetta, grazie. Ma mi ricordo i vecchi tempi delle ceralacche a 78 giri. Sì, quando leccava le ceralacche. Delle prime di Alan Lomax. Sicuramente c'è una componente etnica che Alan Lomax non può che benedire nel come questo vinile è arrivato a Apollo, al sottoscritto. E voglio dire che questo vinile, che nient'altro è che non Give Me the Night, appunto la title track che dà anche il titolo al vinile, e che è quella hit per cui George Benson è poi conosciuto, nonostante nel resto della sua carriera abbia trovato il tempo per essere uno dei più grandi chitarristi jazz degli anni 70-80. Era sempre lui? Era sempre lui, era lo stesso, no, George questa, Benson. Questa cosa la ignoravo, perché non pensavo che potessero essere connessi i due George Benson. Pensavo fosse un caso d'omonimia, sinceramente. Ecco che il musicologo Mannaro io torna a ululare. Quando le cose non le so, alzo le mani, lo sapete, qui a Basement Records ormai. Io invece le metto sulle palle, così tanto per dare un altro tocco di politicamente corretto. Questo vinile ha, voglio dire, due autori. perché che entrambi hanno firmato il disco, uno è George Benson, l'altro è tale Mickey. Questo Mickey è il messaggero tramite cui questo vinile è arrivato a me, e nient'altro che un grandissimo barista di una località ignota ai più, che è Ruvo di Puglia, in un luogo inaccessibile quale è l'altopiano delle Murge. Il bar di Michele, detto Michi per gli amici, è un luogo estremamente accogliente, anche se un tantino equivoco, nel senso che difficilmente si capisce che è un bar alla prima occhiata. Dentro questo bar si può trovare di tutto, dagli idoli voodoo che a Dr. John sarebbero piaciuti tanto, fino appunto ai vinili ed altri elementi pagani. Michele ti serve i cappuccini vestito da grande stregone africano. È un uomo veramente multicolore, e da lui ho avuto modo di avere in regalo questo bellissimo vinile di George Benson, firmato anche da Michele stesso, va bene, che in qualche modo lo veicola. E quindi ecco a voi Give Me The Night. Qui George Benson a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no? Give me the night. So give me the night. Now there's music. E questo era George Benson con il suo, uno dei pezzi più famosi in questo caso della sua epopea disco, Give Me The Night, che appunto il buon Apollo mi stava dicendo anche delle sue varie altre carriere qui in fuori onda, altre carriere, fondamentalmente la sua carriera di grandissimo chitarrista jazz che io ignoravo, riconosco. George Benson è stato un contemporaneo di Wes Montgomery e comunque un pari di Wes Montgomery tra i più grandi chitarristi jazz. Esatto, veramente un grandissimo del post Charlie Christian. Assolutamente. Del pre Pat Metheny. Sì, e poi comunque per localizzarlo, ecco. Così per metterlo tra parentesi, vabbè. Anche se appunto poi la sua partecipazione alla black music è molto più vasta, voglio dire. Che ha lambito anche ambiti decisamente pop. Funk, disco e comunque gli ambiti pop. Gli ambiti, cioè, che io personalmente non voglio definire commerciali, pur essendo stati sicuramente gli ambiti della black music che hanno riscosso più successo commerciale, ma generi musicali che, come ci insegna l'immortale George Clinton, in realtà avevano e hanno mantenuto nei decenni comunque un potenziale mistico che nulla insomma poteva ridurre al semplice meccanismo della hit dell'introito, ecco, insomma, non, cioè, il funk con il suo beat che parte sull'uno e la disco successiva che invece insiste sul 4, comunque hanno mantenuto un potenziale di trance e trascendenza quasi religioso. Come non mancherà di ricordarci il prossimo pezzo, che viene da una colonna sonora assolutamente riconoscibilissima, e quindi non starò a dire che cos'è perché la riconoscerete, va bene? E se non la riconoscete, comunque la cosa importante è che non potete fare a meno di ballare il prossimo pezzo, che poi è poi il punto della questione. Quindi, senza ulteriore indugio, appena poco. Lo mando? Che dice buon Apollo? Mandalo e veramente... E poi diremo da dove arriva, del perché arriva, lo diciamo dopo. L'unica cosa che diciamo adesso è che questo pezzo ci permette di celebrare anche un centenario, anzi un tricentenario importante che cadeva giusto l'anno scorso. Prego. Vadi, sempre qui a Basement Records, in edizione natalizia, ovviamente qui su Radio Wombat, dove se no... We'll be right back. E dunque il... Vabbè, qui sta... Lei, caro Apollo, sta giocando, sta sparando sulla Croce Rossa, perché tra il jazz e la disco veramente ha portato le mie passioni qua stasera a Radio Wombat. Io lei è un infingardo, se lo ricordi. Io speravo che lei, visto che mi sta dando del lei, avrebbe è un infingardo. Avrebbe citato anche Beethoven, voglio dire, fra le sue passioni, visto che non mi permetterei mai. Ma invece, ovviamente, questo pezzo tratta dalla... Colonna sonora di Saturday Night Fever. La febbre del sabato sera, essendo oggi sabato, ovviamente... Ci stava perfetto, ci stava infatti. Perfettamente, voglio dire. Però in questo caso, in questo periodo, cioè febbre e sabato sera non dovrebbero stare nella stessa frase, se lo ricordi molto bene. E noi abbiamo già... periodo febbre, insomma, Le ricordo... Si è tamponato... Le ricordo, caro Apollo. Io sono stato tamponato solo una volta per adesso e devo dire che ormai inizio a sentirmi un po' un pischello, perché voglio dire, e tra l'altro me l'ho ricordato anche la gentile signorina che mi ha tamponato, va bene, quando mi ha chiesto in maniera molto delicata: è la prima volta? Il che mi ha fatto appunto capire che probabilmente altre persone meno fortunate di me, insomma, hanno avuto modo di tamponarsi più di una volta, va bene. E mi ha lasciato poi comunque nell'interrogativo del cosa sarebbe successo se invece di rispondere sì è la prima volta io avessi risposto tipo no è la quarta, cioè se il tampone a quel punto sarebbe stato somministrato con meno attenzione o con, come dire, una certa... Ti avrebbe trapassato il cervello, probabilmente. Ma guarda, non avrebbe trovato grande resistenza, voglio dire. Esatto, quindi non ci sarebbe stato problemi successivi. Senta, era al sicuro, caro Apollo, non si preoccupi. Io non accetto, come dire, tutto quello che... tutto quello che viene detto da chi non apprezza Beethoven mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro, insomma. Io non ho detto che un non po' come avrebbe Beethoven. Fatto con Beethoven, il quale vogliamo ricordare, insomma, non aveva non un ci sentiva un gran che bene finissimo, va bene, ma aveva un grande gioco di gambe, va bene, e quindi sicuramente avrebbe apprezzato questa versione disco della sua quinta di cui vi abbiamo appena omaggiato, che potete riusare la sera di Natale. Quindi ricordiamo un Natale in versione ristretta quest'anno. Ricordiamo il 250enne del maestro e proseguiamo un caro saluto a Ludovico Van, un caro saluto a Ludovico Van che noi ascoltiamo sempre volentieri e senza l'ausilio di tenaglie che ci tengano aperte le palpebre, voglio dire, come potrebbe capitava. Potrebbe essere interessante, al buon Allen. Si accomodi, pena poco. Come capitava l'arancia meccanica. Se mi permette, deve essere il primo episodio di Basement Record in cui si dà del lei a qualcuno. E a una certa il lei viene quasi al prossimo pezzo passeremo al voi alla sua eminenza al plurale maiestatis. Allora, no, il prossimo pezzo necessita non ha altri motivi per spingerci alla formalità se non il fatto di essere stato udito per la prima volta e quindi il vinile acquisito tra l'altro in presenza di Penapoco, che era lì quella sera, perché Penapoco non è un'entità soprannaturale priva di corpo, ma esiste veramente e non è sempre, non vive solo qui nello studio di Radio Wombat, ma c'era anche sotto palchi una volta quando ci facevano sentire ancora i concerti live. E qui, guarda, vorrei quasi se veramente vorrei quasi chiedere un minuto di silenzio per tutti live che non che ci sono, che, di cui ci hanno privato quest'anno veramente. Esatto, e assolutamente, avendo molti amici musicisti seri, non posso che veramente un pensiero no, va non, a loro, non due imbecilli come noi qui presenti. No, assolutamente, gente che veramente sa veramente i suoi modi e le sue scale, va bene. E però appunto due raccattati come noi comunque erano insieme nel sentire questa band giovanissima e emiliana, quindi nostrana, che si esibiva in un noto bassifondo fiorentino, in cui si ascoltano egregi live sul retro del Teatro dell'Opera, va bene, quindi per quello dicevo la formalità. Teatro dell'Opera che raramente ci vede, ma sicuramente il suo retro più volte sicuramente ha, estremamente di più, diciamo. Estremamente di più del davanti, va bene, mm-hmm. E ci ha ospitato e ne abbiamo tratto grande soddisfazione anche grazie a questa band che fa un rock alternativo che veramente fa onco, per usare un'espressione Se non ricordo male, quella sera erano il gruppo Spalla, no, infatti, quindi il gruppo principale in realtà era di un livello ancora più incredibile. Erano stati veramente favolosi. Il nostro Apollo probabilmente si ricorda anche il nome degli headliner di quella sera. Avevano un nome che suona un po' come una maledizione. E che mi farò venire in mente prima del prossimo pezzo, esatto, giuro. Erano russi, però mi ricordo. Sì, avevano un qualcosa. Erano veramente tantissima roba, però non avevano vinili con loro quella sera. Vi porteremo maledizioni russe prima del prossimo pezzo, ma sicuramente anche il gruppo Spalla erano validissimi. Facevano assolutamente rock, sì, alternativo, che faceva onco a quello che viene definito al giorno d'oggi pop rock italiano. Quindi ecco a voi Sunday Morning nel pezzo di apertura del loro primo disco. Carry Me Home, qui a Basement Records, Radio Wombat. Wombat. E dove se no? No! I wanna feel natural. I need a strong behind. questi erano i Sunday Morning con Carry Me Home. Figli reietti della musica italiana, ma dei grandi. Vogliamo ricordare appunto gli headliners della serata, anch'essi... che non erano russi. Voglio puntualizzare, perché quando sbaglio voglio mettere i puntini sulle i, non voglio nascondermi dietro ad un dito, ma erano italiani. E anche allora loro, però... avrai finito sia i puntini che i diti, probabilmente. Sì, infatti sono monco ormai. Siamo in due. Comunque sì, diciamo che la geografia è andata un po' a farsi benedire stasera, sia prima con Dottor John e Van Morrison, sia ora con il riferimento appunto a questa serata fantastica che ci è stata gentilmente portata, diciamo, dalla Annibale Records, una casa, esatto, di produzione indipendente, ripetiamo, la Annibale Records, che veramente consigliamo a tutti di interessarsi e di seguire, una casa indipendente di produzione italiana che fa delle proposte veramente, veramente interessanti. Quella serata vedeva appunto i Sunday Morning come gruppo spalla, che avete appena sentito, e come headliners gli Helios Inferno and the Magic Octagram. Come abbiamo detto, suona come una maledizione, ma allo stesso tempo suona come una benedizione. Noi li abbiamo sentiti live, furono veramente favolosi, epocali, ecco. Questa è un incrocio fra psichedelia e progressive, una roba veramente, veramente originale. Suonati veramente bene, un gruppo del sottobosco italiano che sicuramente, se vi capiterà di poter ascoltare dalle vostre parti, vi consigliamo assolutamente. Dei grandissimi musicisti. Per chi è nato a decadi di distanza dalla possibilità di vedere Pink Floyd a Pompei, noi raccomandiamo gli Helios Inferno and the Magic Octagram per un trip degno di questo nome, con la T maiuscola, veramente. Anche se non ve li facciamo sentire stasera, ci promettiamo di farveli sentire in futuro. Vi abbiamo fatto sentire il loro gruppo Spalla. E adesso... ci muoviamo invece in una direzione imprevista che ci rivelerà appena poco. Una direzione imprevista, perché questo è un vinile commemorativo. Il titolo è Soul Macossa dal pezzo ultra famoso di Manu Dibango. Cioè, questa è una compilation probabilmente fatta su quel sentiero, quindi dell'incrocio della musica africana con la disco. Mi sembra, se non ricordo male, Soul Macossa di George Benson, sì, di George Benson, di Manu Dibango, era del 1972, cugini, dell'inizio degli anni 70. Cugini terzo grano. Esatto. Cioè, tu, parente alla lontana, diciamo. Geografia e parente là, vanno a farsi benedire. E in questa compilation di Soul Macossa, che immagino voglia ripercorrere quel sentiero, come non ritornare su un'altra autentica leggenda della black music, già affrontata in una precedente puntata di Tonight Alive. Andatevela a recuperare, perché ne vale sicuramente la pena, visto che stiamo parlando del leggendario Curtis Mayfield. E qui in questa compilation compare con uno dei suoi pezzi più famosi, una colonna sonora, anzi una colonna musica, come ama sempre ricordarci la Virgi, che saluto qui, spesso ospite a Basement Records, la colonna musica di un film di blaxploitation degli anni 70, Superfly, e questa appunto era la main track, il main theme della colonna musica di questo film di blaxploitation, e questo è Curtis Mayfield con la sua Superfly, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. E questa era la versione di Superfly di Curtis Mayfield contenuta in questo The Ghana Soul Explosion Soul Makossa. Ovviamente non era la versione originale, ma era una reinterpretazione, come avrete potuto appurare, mi immagino. Infatti era Superfly TNT. Anche questa perla rara ci è stata gentilmente regalata, vogliamo di nuovo ricordare, Michele del Bar Arcobaleno di Ruvo di Puglia, uno dei nostri guru spirituali e musicali, dal quale abbiamo acquisito, vorremmo dire sotto banco, ma in realtà sopra banco, perché Michele tiene i vinili in bella posta, e quindi l'abbiamo acquisito, ci è stato regalato da lui, quindi di nuovo grazie Michele, grazie Michi, come si firma sui suoi vinili. E adesso, come dicevano i Monty Python, è ora qualcosa di completamente diverso. Quindi vedo che appena poco è sui fornelli. Appena poco è sui fornelli, ma già per cuocere quello successivo. In realtà il prossimo vinile sul piatto è un'altra nostra nota conoscenza. L'avevamo già sentito prima in versione giovanissima insieme a Charlie Parker. Lo avevamo citato come comprimario, ma lui non lo avrebbe mai accettato. Direi quindi che se Miles in vita t'avesse sentito dire comprimario, probabilmente non saresti qua. Ed è così che rischiamo nuovamente la morte, o quantomeno la maledizione di Miles. Chiamare Miles il comprimario, insomma, no, manco sua madre probabilmente poteva farlo. Io, quindi questo prima, vinile prima, però prima di far dire con tutto, io solo l'ho messo sopra al piatto e giusto per far capire, eccolo, di cosa stiamo andando a parlare, vorrei ricordare i nomi del sestetto che stanno per suonare qui a Radio Wombat insieme a Miles Davis. Il musicologo Mannaro, eccolo. Il musicologo Mannaro non può esimersi da citare il fantastico sestetto qui con Miles Davis. Infatti era una delle registrazioni, questa è una delle registrazioni Columbia in cui Miles Davis sta suonando con John Coltrane al sax tenore, Hank Mobley, Wynton Kelly, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Veramente un sestetto di superstelle cioè non si può né chiamare più bebop, non si può chiamare più cool jazz, possiamo solo chiamarlo Miles Davis, credo. Io direi che possiamo soltanto chiuderci in un rispettoso silenzio e non chiamarlo proprio. Il vinile in questione è Someday My Prince Will Come. Esatto. Uno dei capolavori di Miles. Cioè, io, ecco, il fatto è che nella discografia di Miles cioè, ce n'è veramente pochi che non possono essere considerati capolavori. Cioè, anche perché, non so, è difficoltoso veramente approcciarsi con qualunque dei suoi lavori e non prodigarsi in complimenti e non so, sbrodoliamoci, caliamoci le braghe. Esatto, perché le braghe fino Miles, in fondo. Miles e poi questa, appunto, con un sestetto di questo livello qua siamo veramente ai massimi livelli del jazz, e questo è Miles Davis con John Coltrane e tutta l'allegra compagnia ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. Thank you. Thank you. eravamo qui in estasi ad ascoltarci il sestetto leggendario di Miles Davis qui con questo un'overdose di jazz, veramente un vinile da pelle d'oca, ma come appunto già precedentemente detto nell'intervento di prima, è trovare qualcosa che non valga la pena di ascoltare di Miles Davis, bisogna veramente impegnarsi, ecco. Questo è un altro vinile, vogliamo dire, donatomi con chiaro intento educativo dal vicino di casa di cui sopra, quindi insieme a Charlie Parker, Miles al top della sua forma, insomma, per fare in modo che se proprio io dovevo disturbare il vicinato lo facessi, diciamo, in modo consono, ecco. In modo consono, va bene, in modo consapevole. Quindi di nuovo grazie per questo dono, Someday My Prince Will Come, questo vinile incredibile di Miles Davis. Ora facciamo un altro di quei salti carpiati, di quegli shock, vi proponiamo un altro di quei salti quantici, un altro di quegli direi, shock in questo caso direi sarà almeno un rodeo. In backside rodeo. Beh sì, insomma, beato chi riesce a rimanere in sella, mentre noi adesso passiamo a proporvi un tipo di musica ritorniamo nelle viscerale. Torniamo dove siamo già stati in realtà, torniamo in quella quell'area interna dell'Italia, della Puglia, che è l'altopiano della Murgia, dove già conosciamo un personaggio notevole che è il buon Michele del bar Arcobaleno di Ruvo di Puglia, e adesso andiamo a conoscere qualcuno che lo ha preceduto di molti decenni, i fratelli Gadaleta, fratello e sorella, i quali ci hanno lasciato delle interpretazioni di canti popolari di quell'altopiano che sono l'equivalente italiano e nostrano di quelli che potevano essere veramente i canti africani o gli spiritual, cioè le radici, le nostre radici, la musica folclorica originale, il folk originale che tutti abbiamo dentro, quindi ci sembra giusto proporveli alla fine. Anche il buon Miles non ha fatto che seguire quell'impulso che veniva dal folk originario, dalla musica popolare tradizionale, nel suo caso ovviamente afroamericana, nel nostro italiana. Quindi andiamo con una taranta. Questa è una tarantella ore ore, cantata e suonata appunto dai fratelli Gadaleta, Carmelita e Eugenio Gadaleta alla chitarra. Questo è un pezzo folclorico tradizionale della provincia di Foggia, appunto tarantella ore ore, e questa naturalmente è sempre Basement Records, Radio Wombat. Wombat. Ci non lo va a parare, tutta la vena la da mangiare. Non ci vai a mandare bene un paga la chianata, non ci vai a mandare bene un paga la chianata, vai da tacche vede, mondo, lo traio per stare a mondo, vai da tacche vede, mondo, lo traio per stare a mondo. Salama che la mia è stata buona, salama che la mia è stata buona, che quando venga seta, che quando venga seta, che quando venga seta, l'alga venga lo varete, che quando venga sola, l'alga venga lo guaglione. Ui, ui, ui, non sai che tengo io, ui, ui, ui, non sai che tengo io, io tengo la uscita, che lo vedo quando è bella, io tengo la uscita, che lo vedo quando è bella. Ora, ora, ora, passerà l'indola vena, ora, ora, ora, passerà l'indola vena, ci non lo va vaprai, ci non lo vaprai, ci non lo vaprai, tutta la vita la mangiai. Qui vai, qui non sai che tengo io, qui vai, qui non sai che tengo io. Io tengo la uscita con lui quando è bella, io tengo la uscita con lui quando è bella. Durava... Era brevissimo questo pezzo. Breve ma intenso. Breve ma intenso. Questa era una tarantella dalla provincia di Foggia. Anzi, direi che a questo punto è l'ultimo pezzo, anzi, il penultimo pezzo prima di lasciarvi con l'ultimo che chiuderà la puntata di stasera, ma che lascerò introdurvi qui all'ospite speciale di stasera, al buon Apollo, ci spieghi un po' la storia di questo disco estremamente particolare, di cui c'è voluto anche un po' di tempo per tradurlo, diciamo. Allora, diciamo, rendendo omaggio alla tradizione di Basement, nel modo più sincero, quindi vogliamo qui presentare proprio il nostro omaggio, che è questo vinile che ci è arrivato come dovrebbero arrivare i vinili, cioè dalle cantine, non dalla nostra, ma dalla cantina di un caro amico che tra l'altro è un insigne etnologo e flautista di flauto bansuri indiano, nonché grande potatore di olivi, Marco Romano Coppola, il quale è venuto a sapere del nostro fortunato acquisto anni e anni fa di un giradischi, avendo ritrovato l'oggetto in questione, ci chiamò e ce lo donò. E questo era un dono che veramente non potevamo desiderare un dono migliore. Era, diciamo, un inno a tutto ciò che ci è caro. Questo inno che vi faremo sentire è un inno che è intonato dall'Aleksandrov Ensemble, un ensemble corale e sinfonico dell'Armata Rossa, come solo loro sanno intonare. E questo vinile porta tanti tanti grandi successi, diciamo, successi nella comunità sovietica principalmente, ovviamente, ma che vi facciamo sentire in diretta. Questa è la canzone di Stefan Razin, un grandissimo successo, ve la leggiamo anche in cirillico, come è poi riportata sul retro di copertina del vinile in questione. Quindi Isa Ostrova na Stefeni, un inno per noi, un inno per voi, signori, come può essere soltanto qua su Radio Wombat a Basement Records. E questa è l'Armata Rossa con l'orchestra di Stefan Razin. Radio Wombat. Расписные переднем стене каразин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. Сам на утро бабы стал. Этот робот и насмешки слышит грозный атаман, и он мощною рукою обнял персиянки стал. Epocale di Stefan Razin, come avrete avuto modo di capire ascoltando il pezzo, i suoi tre cigni non sono sopravvissuti, ma il suo fervore nazionale invece sopravvive, anche perché nell'armata della, cioè nell'orchestra dell'Armata Rossa probabilmente non poteva essere altro che così, aggiungerei. Visti i tempi grami che hanno vissuto, i cigni se li sono mangiati, ma sicuramente non venivano meno alle dichiarazioni di fervore nazionale. È così che si conclude l'epopea di Stefan Razin, e ci avviamo quindi alla chiusura della trasmissione. Dico bene, appena poco. Esatto, ormai questo era l'ultimo pezzo della puntata di stasera. appunto con un pezzo con l'orchestra che ospitava l'orchestra dell'Armata Rossa. E non mi resta altro, prima della chiusura, di ricordare i prossimi appuntamenti in diretta qui sulle frequenze di Radio Wombat per la giornata di domani, di domenica, che come sempre inizierà alle 10 di mattina con i contenuti all'interno di Container, il grande contenitore di Radio Wombat di interventi, interviste e di cose interessanti che ci sono pervenute o che comunque abbiamo registrato e che non sono potute andare in onda all'interno di altri programmi. Strabocca di contenuti. Esatto. Poi la diretta successiva di domani, domenica, sarà il notiziario anticlericale, che andrà in diretta con l'inizio a mezzogiorno di domani, ormai il consueto aggiornamento sulle vicissitudini del clero qua a Radio Wombat. Subito dopo la Santa Messa del Papa Francesco a San Pietro. Poi alle ore 13, alle 1, la replica di Coccole al Silicio, il contenuto, il classico programma ormai presente fin dagli esordi di Radio Wombat, con interventi che riguardano l'informatica e tutta la digitalizzazione che ormai ci circonda nella nostra vita quotidiana. E che domenica sarebbe senza le coccole. Esatto. E poi proseguiremo alle ore 14 con la replica di Wook Wops, la nuova trasmissione di Radio Wombat che ci aggiorna sugli eventi che accadono dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, negli Stati Uniti d'America, e sentiremo un po' i nostri inviati cosa ci racconteranno dopo le ultime elezioni che hanno visto Erpannocchia tornarsene a casa. Appunto, mi dicevi prima, Buonapollo, che nel pezzo dei Pavement, ovvero Texas Never Whispers, c'è una dedica mancata di questa trasmissione di oggi, appunto il pezzo dei Pavement, Texas Never Sleeps, che appunto andava al Texas e alla buonanima del di cui sopra per aver tentato l'ennesimo ricorso, bocciato duramente, l'ennesimo ricorso elettorale bocciato duramente dalla Corte Suprema, comunque a maggioranza repubblicana, quindi davvero, sì, infatti a questo punto non veramente non ci sono scuse, e quindi il Pannocchia sta scivolando sempre di più verso la sua reggia dorata, che probabilmente ora sarà più simile a una bella vasca di letame, insomma. Esattamente. E poi dopo l'aggiornamento dagli Stati Uniti d'America di Wook Wops, i programmi di Radio Wombat proseguiranno in diretta alle 15:30 due volte al mese, quindi una settimana sì, una settimana no, con Poyuit, la trasmissione che è la diretta emanazione del Festival della Letteratura Sociale qui di Firenze, e poi alle 19, alle 7 di sera, andrà in diretta L'Arte del Vizio, un'altra nuova trasmissione entrata qui nel palinsesto di Radio Wombat, che potremmo definire uno spin-off di Radio Contado, ma non vi voglio anticipare niente, ascoltatevela perché ne vale assolutamente la pena. E poi chiude la giornata di domenica qui su Radio Wombat con la replica alle ore 22 di URU, il programma di informazione sul continente africano, qui su Radio Wombat. E a questo punto, qui da appena poco e dal buon Apollo, non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di weekend e un'ottima conclusione di questo sabato sera in zona rossa, anche se non sarà lo stesso senza Basement, diciamola tutta, ma però il prossimo sarà l'appuntamento con Tonight Alive, che non lascerà i nostri ascoltatori abbandonati nel sabato sera delle onde AM, e grandi sorprese sono in fermento per voi. Sta arrivando la cavalleria, ragazzi. Esatto. E quindi un buon proseguimento di weekend di sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat. E per quanto riguarda Basement Records e Tonight Alive, ci riaggiorneremo il prossimo sabato, in settimana prossima. In questo caso zona arancione, perché ormai siamo in arancione, non so se ormai quando Orange ci ascolterete County già in gialla, però un buon proseguimento di serata qui sulle frequenze di Radio Wombat. Alla prossima, buon fine settimana a tutti. Adios. Radio Wombat, da sempre e obiettivamente la migliore.